che sei qui, presente al mio fianco. Faccio te la notte nella mia mente, ormai stanco ti penso. Gabbia fatta di cose reali, la mia vita cigola, avvertendo il vuoto della tua assenza. Tento di uscire dalla fitta rete di sguardi, cerco un punto d'appoggio per non cadere. Resisto ai miei lamenti, stringo forte i denti ancora per un po'. Allungo la mia mano, sfiorando la tua mano, per assorbire l'ultimo respiro. Bastato che ispirassi per farti tornare, è bastato che soffiassi affinché ti rapisse la mia realtà. Ora che ci sei, fai bene a restare, ti aspetti, non può arrivare. Ora che ci sei, fai bene a restare. Ancora lì, vuoi restare? Ma sei davvero uno schianto. Guarda bene chi ti passa accanto. Oh, oh. Non è come te. che ci sei.